Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai ci siamo abituati a raccontare vite difficili di artisti, di cantanti, di personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto della musica. Li abbiamo visti travolti e devastati dai tre grandi pericoli: droga, alcol e amore. Li abbiamo seguiti spesso, ahimè, in un lento ma inesorabile cammino verso l'autodistruzione. Però ci sono naturalmente alcuni che hanno saputo reagire davanti alle difficoltà, davanti all'insuccesso, hanno avuto la forza di ripartire, di dare il colpo d'ala. Altri che si sono persi per strada, altri magari che hanno che sono stati ondivaghi dall'alto al basso più di una volta. Ecco, oggi noi raccontiamo proprio una storia del genere, un cantante che ha alternato periodi di grandissimo successo e momenti di insuccesso che lo hanno trascinato verso il basso, e lui lì ha saputo più volte alzarsi e ripartire. Il suo nome è Hans Oelzel, però il mondo della musica l'ha conosciuto col suo nome d'arte, Falco. Questa musica è Mozart, è la sonata in la maggiore numero 11, il famoso rondò alla turca, che ci aiuta un po' a entrare nello spirito del nostro personaggio, perché la nostra storia inizia tra le montagne dell'Austria, patria di Wolfgang Amadeus Mozart. Terra di passati altisonanti, regali, un'isola geografica schiacciata negli anni della guerra fredda tra il blocco occidentale e il blocco comunista. Proprio in quegli anni duri nasce a Vienna un bambino, si chiama Johann. La madre aveva scoperto al terzo mese di avere perso una coppia di gemelli, però l'ecografia aveva confermato che un terzo gemello era sopravvissuto, quindi un piccolo grande miracolo. Johann Hans, come viene soprannominato, nasce il 19 febbraio 1957 con una famiglia come tante, senza grandi difficoltà economiche, ma non certo benestante. Però in casa c'è un pianoforte e questo piano attira l'attenzione del piccolo Hans, che già a 4 anni ascolta, riproduce a orecchio brani di musica classica, insomma ha l'orecchio assoluto e ha un grande talento musicale. Non passa inosservato e fin da piccolo si merita il soprannome di Piccolo Mozart. E quindi si va a scuola e si parte a suonare con i primi gruppi musicali, come si faceva in quegli anni, tra compagni di scuola. Hans suona bene il piano, però suona anche la chitarra, poi sceglie il basso e dimostra una passione nei confronti della musica, che non è la stessa peraltro che lui ha nei confronti della scuola. Di fronte all'ennesima bocciatura abbandona gli studi e comincia a lavorare. A casa era tutto molto noioso per me. Da giovane ho sempre desiderato essere una pop star, ma alla fine facevo cose estremamente normali, come suonare nei locali e fare qualche lavoretto, cercando di risparmiare qualche soldo qua e là. Per 5 o 6 anni ho fatto tanti lavori, senza tuttavia mai lavare automobili o fare altre cose del genere. Ho sempre lavorato nel mondo della vita notturna. E arriva la fine degli anni 70, che è un periodo di grande fermento musicale. Hans Oelzel è del 57 come me, quindi insomma il contesto è quello. C'è David Bowie, c'è il punk, c'è una rivoluzione in atto che spazzerà via molti, diciamo, dinosauri precedenti e darà vita a una nuova musica. Ecco Bowie, lui è un grande fan di Bowie, il centro del fermento culturale, peraltro è la città di Berlino, e lui si trasferisce lì come tanti perché cerca fortuna nel mondo della musica. E nel 1978 Hans Oelzel suona il basso in un gruppo, si chiama The Hallucination Company, e il capo, diciamo, un certo Vicar Adams, che è in quel momento è il maggiore esponente dell'underground viennese. È un gruppo trasandato, trasgressivo, insomma si chiamano Hallucination Company. E un giorno Hans si presenta alle prove e espone a tutti la sua idea: vuole che il gruppo abbia una svolta, un grande cambiamento. e il cambiamento deve partire da lui. Lui annuncia alla band che non vuole più essere presentato come Hans Elzel, vuole essere presentato inizialmente come Falco Gotterer e poi addirittura decide di farsi chiamare solo Falco. E quindi insomma diciamo che per questa trasmissione uno che si chiama Falco è perfetto. Lui in realtà ha scelto questo nome perché c'è un saltatore con gli sci che si chiama Falco Weissblog dell'allora DDR, no? La Germania orientale, e Hans è un fan di questo sciatore, quindi gli ruba il nome e lui comincia a cambiare non solo nel nome, cambia l'abbigliamento, si differenzia dal resto del gruppo perché sono un po' dei fricchettoni questi qua, hanno i capelli lunghi, abiti trasandati, lui comincia a vestirsi elegante con i capelli impomatati, con gli occhiali da sole e siamo più vicini a Bowie di berlinese, insomma, che non ai miti di fine anni 60. Poi è un periodo particolare per lui, è un periodo di anarchia, di droga, di vita al di fuori dai canoni normali, però lui si presenta al pubblico in modo diverso, entra presto in conflitto con gli altri componenti della band, così cambia gruppo, entra negli Spinning Wheels che diventano la band più conosciuta a Vienna e comincia a cantare oltre che a suonare il basso, insomma a delineare lo stile che lui presenterà per tutta la sua carriera. E come spesso accadeva in quegli anni pre-talent, arriva un produttore discografico che lo nota nella band e propone un contratto discografico solo a lui per 3 album. Siamo agli inizi degli anni 80. A Falco viene fatta ascoltare una canzone che ha un testo debole, bisogna lavorare su questo testo. Lui ascolta la melodia, la canzone gli piace, in 3 giorni scrive il testo e la canzone si chiamava Der Kommissar. Il Falco e il Gabbiano. E Falco comincia a destare interesse nella scena del pop mondiale, fatto anomalo, per cui lui canta in un misto di tedesco, dialetto austriaco con qualche parola in inglese. E insomma è troppo poco però l'inglese perché Der Kommissar possa diventare un successo internazionale. E invece le regole sono fatte per essere trasgredite. La canzone vende 7 milioni di copie. Falco è scaraventato sotto i riflettori del successo, è una novità assoluta, testi geniali, poi questa strana lingua che usa per cantare, frutto un po' della fusione di lingue diverse, poi il linguaggio del corpo, perché lui esprime uno stile che in qualche modo lo fa diventare il primo rapper bianco, ben prima di Eminem. E così la vita cambia radicalmente. Hans Elzel ha ancora il numero di telefono e l'indirizzo sulla rubrica telefonica di Vienna. Bisogna cambiare perché davanti a casa sua ci sono schiere di ragazzine, di ammiratori che cominciano a presentarsi in una specie di pellegrinaggio. Lui trasloca, comincia a viaggiare per il mondo, a partecipare a trasmissioni televisive, fa dei concerti, pochi perché ha ancora poche canzoni all'attivo come repertorio. Arriva in Italia, viene a Sanremo, ci conosciamo a Sanremo, partecipa a Super Classifica Show, però questa celebrità improvvisa lo cambia e il cambiamento non è positivo. I problemi con l'alcol sono iniziati con il successo e con i soldi. Credetemi, tu hai un problema quando il tuo successo cresce più velocemente del tuo spirito. Con Der Kommissar ho guadagnato 6 o 7 milioni di scellini. Tu compri una casa, dei mobili, un'automobile, degli abiti, un appartamento di 150 metri quadrati, una Mercedes, un orologio. Senti il bisogno di tutte queste cose solo perché hai visto in qualche film che le pop star devono comportarsi così. Queste parole sono tratte dal libro Lo spirito non muore mai, una biografia di Falco scritta da Michele Nusco. Insomma, lo sappiamo, è difficile arrivare al successo, ma è ancora più difficile riuscire a mantenerlo. Sull'onda del successo di Der Kommissar esce il primo album, Endlust, che è tutto in tedesco, e l'album non trova gli stessi consensi del singolo. A quel punto la lingua comincia a diventare un limite, perché un pezzo strano viene tollerato, ma non un progetto. Esce un secondo album, Junge Römer, giovane romano, è il 1984, però le atmosfere sono diventate più dark e i testi difficili. Lui ha alzato dato troppo l'asticella al pubblico, non lo segue. Poi lui non è molto simpatico durante le interviste, appare freddo, distaccato, probabilmente atteggiamento frutto di sicurezza, di timidezza e magari anche di qualche sostanza chimica di troppo. Insomma, Jung Römer è un flop di vendite. E così nel 1984, che doveva essere l'anno della consacrazione, vede invece un tour annullato, un vortice di depressione, abusi di droga, alcol. Per il Capodanno 84-85 lui va in Thailandia con degli amici per allontanarsi, insomma, da tutto quello che lo opprime psicologicamente, dalle pressioni che lo stanno schiacciando, e fa questa vacanza di un mese molto importante per lui, perché contribuisce a riportargli un po' di calma, un po' di stabilità interiore, e ha bisogno di questo perché deve lavorare al suo terzo album, l'album decisivo. A questo punto della storia ci vuole un buon produttore, uno capace di valorizzare il talento artistico di Falco, di trovare una chiave di lettura per cercare di realizzare un buon disco, un buon prodotto discografico. Questo incontro avviene a Cannes in occasione del Midem, è una manifestazione dove ogni anno si incontrano discografici, artisti, produttori di tutto il mondo. E il manager di Falco, Horst Burk, conosce i fratelli Bolland, sono un duo olandese che nell'81 aveva ottenuto un grandissimo successo con il brano In the Army Now, cantato poi nell'86 anche e soprattutto direi dagli Status Quo. E questi fratelli Bolland sono interessati a lavorare con Falco, pensano che ci sia del potenziale ma che sia il momento di valorizzare determinati elementi che caratterizzano il suo personaggio, intanto l'essere viennese, essere cioè originario della terra del più grande rivoluzionario della musica, uno dei più grandi, Wolfgang Amadeus Mozart. Lei è al corrente che io ho dichiarato quel lavoro francese con Figaro inadatto per il nostro teatro? Sì, signore. Ci dicono che ne sta facendo un'opera. Risponde a verità? Sì, ecco, io... Sì, l'ho scritta. Mozart, io sono un uomo tollerante. Non censuro le cose alla leggera. Se lo faccio, ho le mie buone ragioni. Figaro è uno spettacolo nocivo. Ne ho fin sopra i capelli di queste astruserie elevate, tutte vecchie leggende. Chi di voi non vorrebbe ascoltare il suo parrucchiere piuttosto che Ercole, Orazio, Orfeo, gente così nobile che anche la loro merda è marmo? Oh, cosa? Chiedo scusa a vostra maestà. Io è vero, sono volgare, ma le garantisco che la mia musica non lo è. E questo dialogo è tratto dal film Amadeus, cioè un Mozart combattivo che non ha paura di contraddire addirittura il re. Il film di Milos Forman vince 8 Oscar nell'85, è il film del momento, rappresenta l'Austria, i Bolland sono convinti che Falco sia il cantante giusto per una canzone che abbia delle sonorità pop ma che in qualche modo ricordi la classicità di Mozart, e così realizzano un provino di un brano. Il brano si chiama Amadeus. Adesso però bisogna farlo ascoltare al diretto interessato. Io so per esperienza che, insomma, far ascoltare un provino a un cantante è sempre un momento delicato perché potrebbe anche non piacere. Il falco e il gabbiano. E tra il falco e il gabbiano noi oggi abbiamo scelto il falco, anzi Falco, all'anagrafe Hans Oelzel, il cantante viennese che nell'81 ha raggiunto un successo enorme, è arrivato in vetta alle classifiche di molti paesi con Der Kommissar, era un rap cantato in un misto di tedesco, inglese e dialetto viennese, fu un successo improvviso che però non ha avuto un seguito, ha gettato Falco in uno stato di depressione e sono arrivate la droga e l'alcol. Ma 4 anni dopo ci sono dei nuovi produttori, sono i fratelli Bolland, olandesi, hanno scritto una canzone che può riportare il nostro eroe di nuovo al successo. È una canzone che si chiama Amadeus, sonorità pop, tradizione viennese, e l'argomento si sta parlando del più grande esponente della musica austriaca, no? Wolfgang Amadeus Mozart. Il provino viene fatto ascoltare a Falco e, come leggiamo nella sua biografia Lo spirito non muore mai di Michele Nusco, la sua reazione al primo ascolto è questa. Stammi a sentire, Rob. Tu stesso non incideresti mai una canzone che parlasse di mulini a vento, zoccoli di legno e formaggio, giusto? Beh, per gli stessi motivi io non inciderò mai una canzone sui cioccolatini di Mozart. Gli stereotipi sono dannosi, sono pericolosi, insomma, devo dire, insomma, anche recentemente sono stato negli Stati Uniti, in Canada, mi amareggia molto vedere che molti americani pensano agli italiani come gente che fa musica melodica, pizza e mandolino. Poi è chiaro che se ci mandiamo quelli che fanno funiculi funicula col mandolino, la situazione precipita. Vabbè, ma questo è un problema nostro italiano, ma probabilmente ce l'hanno tutti, insomma, i Sepultura, che sono brasiliani ma non fanno UGG ma fanno rock durissimo, avranno sicuramente da dire la loro anche su questo argomento. Comunque siamo a Falco, che ha viaggiato, non vuole essere vittima di questi stereotipi, non vuole diventare una macchietta, però alla fine registra tre canzoni e una di queste è Amadeus. Lui punta su Moon Girl, che è una rivisitazione in tedesco di una canzone dei Cars, Looking for Girls. Falco registra queste tre canzoni completamente ubriaco, sempre fedele al suo personaggio di cantante in caduta libera, in stato di abbandono. Così vengono registrate decine e decine di versioni di ognuno dei tre brani e mentre lui canta, insomma, si consumano anche decine e decine di bottiglie di whisky. Poi il testo di Amadeus comincia a cambiare, diventa Rock Me Amadeus. Il lavoro prosegue negli studi olandesi dei fratelli Bolland. Alla fine la casa discografica, che è la Gig Record, decide il primo singolo dell'album non deve essere Munich Girls come avrebbe voluto Falco, ma Rock Me Amadeus, e questa purtroppo per lui è l'intuizione giusta. E in poche settimane la canzone arriva in vetta prima alle classifiche austriache, poi a quelle tedesche. L'11 maggio dell'85 il sindaco di Vienna invita Falco a aprire con un concerto davanti al municipio il Festival di Vienna. Insomma, è la prima volta che un cantante pop inaugura un festival di musica classica. Ci sono 60.000 persone, insomma, quel giorno è il giorno del colpo d'ala verso l'alto. Falco diventa l'austriaco del momento, e non solo austriaco. Viene realizzato un video, Falco a quel punto cavalca la tigre, accetta di presentarsi truccato da Mozart, e i riferimenti al film di Milos Forman sono chiari, e ci sono dei motociclisti barbuti che fanno da contrasto con il palazzo reale di Schwarzenberg, il palazzo nel quale viene girato il video. Insomma, è un momento di grande popolarità, la canzone arriva al primo posto anche nelle classifiche inglesi, che sono i generi impossibili da scalare, e a settembre esce il terzo album, Falco 3. Il secondo singolo è Vienna Calling, che ottiene un buon successo, diciamo va in scia al primo. Poi invece c'è un terzo singolo, si chiama Ginny, è la storia di una ragazza che scappa di casa in attesa di fortuna, si trova però invischiata in un incontro con un uomo che forse diventerà addirittura suo carnefice. Insomma, una canzone ambigua, un po' dark, che riprende le atmosfere dei primi album, probabilmente quelle più care a Falco, più vicine al suo vero stile. Però la storia ricorda il rapimento della figlia di un giornalista tedesco, che mette pubblicamente la canzone e l'artista all'agonia. Falco risponde così alle accuse: sento soltanto parlare di omicidio, ma francamente non capisco di cosa si stia parlando. Ginny è una canzone d'amore concepita in tal modo per essere soggetta a interpretazione. Questa minoranza di persone che ritiene di vedere un crimine o altre cose simili nel videoclip ha un senso di interpretazione orribile e lontano da quello che era nelle mie intenzioni. Però le ripercussioni si fanno sentire, così Falco deve correre ai ripari, incide una canzone nell'album successivo che si chiama Coming Home, che racconta un lieto fine della storia di Ginny, e insomma cerca di rimediare a una situazione che aveva gettato ombra e fango sulla sua immagine. Poi nello stesso anno, nell'86, negli Stati Uniti viene pubblicato un remix di Rock Me Amadeus, The Salieri Version, e arriva al primo posto della classifica di Billboard, per 3 settimane davanti a Kiss the Prince. È la prima volta che un artista che non canta in inglese arriva alla vetta delle classifiche americane. È un colpo d'ala spaventoso e i produttori, i discografici sono contentissimi, però Falco non lo è tanto. In un'intervista intanto è più realista e qualche anno dopo addirittura dichiara che per lui quella canzone era diventata una maledizione. Non fui affatto felice quando seppi che ero al numero uno degli Stati Uniti, perché sapevo quanto fosse stato difficile arrivarci. Mi sono stati necessari quasi 5 anni per liberarmi di questo peso. Rock Me Amadeus è stata la peggiore cosa che potesse capitarmi. Avrei preferito ottenere 3 decime posizioni e 1/3 posto nelle classifiche americane, piuttosto che 1° posto e null'altro. Eh sì, insomma, è un tema che capisco perfettamente. Se fai una sola canzone, poi rimani inchiodato a quella canzone e poi immagino cosa succeda se questa canzone arriva al 1° posto negli Stati Uniti. Insomma, quello che doveva essere un trionfo diventa un po' un colpo d'ala verso il basso. Lui non riesce più a raggiungere quel successo, forse ancora una volta per i suoi limiti linguistici, perché lui si ostina a cantare nella sua lingua. E così, dall'87 al 90, lui cerca di ripeterlo quel successo, esperimenti che falliscono. L'unica nota positiva sembrerebbe, ma poi vi spiegherò perché non lo è moltissimo, insomma, la nota positiva dovrebbe essere la nascita di una figlia, Katrina Bianca. Però il matrimonio con la madre, che si chiama Isabella Vitkovic, dura poco. I due si separano nell'89, così, e Falco comincia a vivere una vita un po' allo sbando, passa periodi ai Caraibi con l'alcol e la droga presenti nella sua vita. E dopodiché c'è un altro colpo d'ala verso in basso. Intanto ci sono gli insuccessi commerciali e la fine della storia d'amore con la moglie. Poi nel 93 una notizia che lo sconvolge, perché a un esame del DNA risulta che quella santa donna della moglie Isabella Vitkovic in realtà ha fatto un figlio con un altro. Insomma, si scopre che Katrina Bianca non è sua figlia. È un altro colpo da incassare. Lui ormai si è trasferito definitivamente ai Caraibi, nella Repubblica Dominicana, a quasi 40 anni. Certo, si dice che la vita ricomincia a 40 anni, ma non sempre accade. Però in questo momento lui comincia a intravedere un barlume di ottimismo. Sono solito dire che ciò che facciamo noi esseri umani su questa terra è scalare montagne. Ciò che non dobbiamo dimenticare, tuttavia, è che qualche volta dobbiamo scendere dalla precedente prima di scalare la successiva. Questa, credo, sia la ragione dei momenti di declino della mia carriera. Se dovessi morire prematuramente, allora vorrei morire come James Dean, a un incrocio su una Porsche, colpo secco, fine. Queste sono parole che Falco aveva rilasciato nell'82 in un'intervista e purtroppo sono parole profetiche, perché il 6 febbraio 1998 a Santo Domingo la Jeep di Falco esce dal parcheggio di un bar, un'accelerazione improvvisa, e l'autista di un autobus sta sopraggiungendo e non può far nulla per evitare l'impatto. L'autopsia rivela presenza di alcol, cocaina e marijuana nel sangue di Falco, del cantante austriaco. Al funerale, qualche giorno dopo, il feretro viene trasportato da quel gruppo di motociclisti che appariva nel video di Der Kommissar. Nel 2009, in uno scantinato, viene ritrovato un provino. Il brano si chiama The Spirit Never Dies, lo spirito non muore mai. A tutti gli effetti è il terzo brano che conclude la trilogia di Ginny, ma soprattutto è il testamento spirituale di un artista che ha vissuto vertiginosamente gli alti e i bassi della carriera da star. Hans Hölz, l'uomo che, facendosi chiamare Falco, ha scalato le vette delle classifiche, addirittura anche in America, è salito e sceso più volte, ma non ha saputo resistere alla pressione terribile che ti mette il mestiere di cantante a quei livelli. Noi aspettiamo vostre segnalazioni a il Falco il Gabbiano che ho sulla radio24.it, di storie che volete che io racconti. Potete anche interagire con me sul sito di Radio 24, sui miei social Facebook, Instagram, Twitter, sui nostri social. Insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.